24. Storie di star. Fiorello è calamitoso. Irresistibile. Capoccione. Il più grande. È indefinibile. Fatto. Fiorello è un italiano vero, molto simpatico, che è la caratteristica degli italiani, per questo che piace molto. Con Fiore ho un compagno di viaggi che è super. E lui è Fiorello. Lo so. Buonasera. Rosario Fiorello, per gli amici Saro, classe 1960, siciliano di Augusta. Per tutti è Fiorello, un irresistibile mattatore in televisione, in radio, in teatro. Oggi a Mix 24 raccontiamo la sua storia. Il 15 ottobre 2001 nasce Viva Radio 2. Il programma radiofonico è subito un successo. Fa parlare di sé, appassiona gli ascoltatori ed edizione in edizione conquista un pubblico sempre più ampio, come racconta lo stesso Fiorello. Adesso ti piace più la radio o la televisione? Ovviamente la risposta è adesso mi piace più la radio. Che succede alla radio di diverso rispetto alla televisione con gli ospiti? È che si lavora di meno. E che arrivi lì la mattina stessa, e che chiami gli ospiti il giorno stesso, e che non prepari, stai lì a fare le prove. Non ci sono le prove, alla radio non è che si fanno le prove. Sì, se viene ospite un cantante va a provare il pezzo, ma giusto perché tecnicamente gli accordi, le cose da mettersi un po'. E hai quasi gli stessi risultati, perché, non so, abbiamo fatto delle incursioni su Rai 1 da 30 minuti l'una, 30 minuti senza pubblicità, erano proprio 30 minuti secchi, che hanno avuto un grandissimo successo. Come risolviamo i problemi? Perché siamo italiani, e siamo così, siamo poeti, siamo santi e anche un po' navigatori, siamo annoni provinciali, schiavi dei televisori, siamo tutti intercettati e di notte controllati, telecamere nascoste, travestite da supporto. Che ci importa, che ci frega, siamo campioni e cantiamo. La prima fece 8 milioni e la seconda fece 10 milioni, quindi da sabato sera, no? Con che cosa? Era una versione, diciamo così, di Viva Radio 2 in TV. Dietro ad ogni puntata di Viva Radio 2 c'è un grande lavoro di redazione, di tecnici, di musicisti e di autori. Quello che accade in quello studio di Via Asiago, Fiorello lo fa riprendere continuamente dall'occhio di una telecamera, come raccontano Pippo Baudo e Mike Buongiorno. In radio, chissà perché, non avendo lo schermo, anche se poi sai che qualcuno ti riprende, e l'idea di sentirti un po' sospeso nell'aria, ti senti di fare delle cose che non faresti mai. Allora io sto dicendo a Pippo Baudo, siamo di giovedì, perché domenica deve mandare in onda questo pezzettino qua, perché guardate che condizioni ha la radio. Vai Pippo Baudo! Vai, ciao Pippo! Ciao Pippo! I protagonisti non possono non starci. Lui ha creato ormai un clima per cui se non ci stanno fanno una brutta figura. Andrea Camilleri, eccolo qua. Maestro, lei non vuole riconoscere però che il fumo fa male. Il fumo farà male, ma smettere è molto peggio. Ah sì, perché scusi? Un mio amico è ingrassato di 10 kg. Anzi, nella nuova campagna che voglio fare sui pacchetti di sigarette, sì, ci faccio scrivere smettere di fumare allarga la vita. Grazie maestro Camilleri, eccolo qua. Trattatemi un Fiorello. Quando si fa un'imitazione, quando si prende in giro qualcuno, bisogna fargli fare anche delle figuracce. Vi state divertendo, no, vabbè, a fare la mia parodia? Ma no, lo so, me lo dicono, sapete? E quando mi fa fare il cattivo con i bambini della mia trasmissione Genius, faceva ridere tutti. E oltretutto è giusto che sia così. Come ti chiami? Alberigo! Alberigo! Ma che bel nome, pensate! Avevo un criceto che si chiamava così. Quanti anni hai? Ho 9 anni e sono del segno della Vergine! Ma io non te l'ho chiesto! Infilerei un riccio di mare nelle mutande e poi ti darei un calcio sugli zebedei. Mix 24. Storie di star. Rieccoci a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di Rosario Fiorello. Spettacolo nello spettacolo, Viva Radio 2, approda anche in televisione. È una sorta di nuovo format che non risparmia neanche il mondo politico, come racconta la spalla di Fiorello, Marco Baldini. Fino a un po' di tempo fa i politici non necessariamente volevano venire in radio, ma comunque se ricevevano l'imitazione di uno come Fiore non gli dispiaceva. Adesso è cambiata la musica, perché ultimamente si sono proposti molti politici per venire da noi e dunque gli fa anche gioco. E quell'altro, Pier Ferdinando, sì. Che nome, oggi Pier Ferdinando non si chiama più neanche un criceto. Va bene, va bene. L'imitazione di Silvio Berlusconi ha poi originato un personaggio paradossale, lo smemorato di Cologno. Lo smemorato di Cologno nasce, come molti personaggi e gag radiofoniche, dai fatti di cronaca, come raccontano Alberto Di Risio e Fiorello. C'è stata una signora che è andata in coma, si è risvegliata e si ricordava solo di Berlusconi. Cioè, questa cosa ci faceva molto ridere. Abbiamo detto, ma pensa al contrario, che, cioè, che è Berlusconi che non si è scordato di tutto. Di essere Berlusconi. Di essere Berlusconi. E da lì abbiamo provato a giocare con questa cosa. Smemorati Cologno è stato un ottimo periodo e secondo me è un ottimo esempio di satira politica. Perché parlo così? Perché ho questo blazer blu, ma soprattutto perché ho questi tacchi interni. Chi sono? Non lo so. Scordato. Vi racconto la vera storia del perché Padre Gheorghe non è mai più andato in onda. Noi prendevamo in giro Padre Gheorghe, ma in maniera bonaria, perché Padre Gheorghe è il segretario di Sua Santità ed è un bell'uomo, fa sport, e noi puntualizzavamo su questo senza nessun tipo di malizia, solo per giocare. E l'Osservatore Romano ci ha bacchettato. Ecco, finché l'Osservatore Romano ci bacchettava, Fiorello, che è da questo lato molto rivoluzionario, no, continuiamo, divertiamoci. È bastata una telefonata della mamma: Fiorello, sei sempre stato un bravo ragazzo, a 47 anni mi diventi indiavolato. Minchia, subito ha smesso, immediatamente, è venuto da noi, no, perché mia mamma ha detto che forse non è il caso, ha smesso, capito? È bastata una telefonata della mamma, della madre. Avete sentito Marco Baldini, per Fiorello, insomma, la madre, la famiglia, le origini sono importantissimi, sono fondamentali. Chi è allora Rosario Fiorello? Da dove è partita la sua irresistibile ascesa? E come si forma la personalità di questo artista che molti considerano un vero e proprio fenomeno? Rosario è nato il 16 maggio del 60 alle 14.30 ed è stato registrato all'anagrafe solo il 21, come racconta il medico che lo ha fatto nascere e lo stesso Fiorello. Rosario è nato da parto distocico, ha avuto un forcipe, però il forcipe ho visto che non gli ha portato male, ma ha sviluppato ancora la sua intelligenza, perché lo ha accarezzato e quindi lo ha tirato fuori benevolmente. No, con mia mamma ci abbiamo un rapporto un po' particolare, proprio perché proprio io e lei da piccoli stavamo per lasciare questo mondo insieme e poi invece insieme ci siamo salvati e forse anche psicologicamente siamo molto, molto uniti. Il secondo nome di Rosario è un nome, Rosario Tindaro. Sai che mi chiama sempre Tindaro? Mike, buongiorno, ciao Tindaro, perché lui vuole farmi capire che lo sa, che per lui non lo sa nessuno, no? Questa cosa qua. Tindaro è un nome che nella zona Messina è vicinato, c'è la Madonna del Tindari, che è una Madonna nera. E allora padre e mia madre erano devoti alla Madonna del Tindari. Suo padre, Nicola Fiorello, è un appuntato radiotelegrafista nella Guardia di Finanza. È un uomo affascinante, nato a Letoianni, che molti paragonano a Clark Gable. Sua madre, Rosaria, è una giovanissima ragazza dei giardini Naxos. È un parto difficile, ma a lieto fine, che non impedisce a mamma Rosaria di avere altri tre figli, Anna, Cati e Giuseppe. Così il ricordo di Fiorello. Il ricordo di mio padre mi inorgoglisce sempre. Essere stato suo figlio mi rende orgoglioso, più di quello che ho fatto. Intanto mi capita di incontrare qualcuno della Guardia di Finanza e dire: ah, guarda, tuo padre una volta ha fatto sta cosa, bla bla bla, allora mi inorgoglisce. La prima infanzia, Rosario, la trascorre a Riposto. Il padre viene poi trasferito ad Augusta, dove Rosario Fiorello, che gli amici chiamano Saro, frequenta le scuole. questo il ricordo degli amici d'infanzia e di Fiorello. A scuola succedeva che durante la ricreazione si usciva dai cancelli e là vicino c'era un piccolo negozio di generi alimentari. Quella era l'unica occasione in cui sfruttavamo le capacità da showman di Saro, perché lui entrava nel negozietto, iniziava una delle sue performance, distraeva la signora e noi rubavamo 3-4 banane, una ciascuno, non di più. Io a Fiorello l'ho preso in quarta C. Quell'anno fu terribile, non potevo scappare proprio. Io abitavo a 50 metri. Cioè, mia madre dal balcone vedeva la finestra della mia classe, per un anno beccai la classe lì, qui mia madre ogni tanto usciva, eccolo là. Lui non è che amasse molto studiare, per cui noi a volte anche suggerivamo, cercavamo di fargli i cartelloni per rispondere alle domande. Fuori dalla scuola, Rosario sfoga la sua esuberanza frequentando le radio private locali, come racconta lui stesso. Nel 1973, avevo 13 anni, cominciai a fare la radio, quelle le prime radio libere, e in Sicilia, mi ricordo, si chiamava Radio Master Sound. E all'epoca la radio era solo un annunciare il titolo del disco, fare la dedica e richiesta da Pinuccia a Maurino con un messaggio: vieni a prendere il caffè da noi. Questo era, e si parlava, mi ricordo, c'era questa fobia della voce da disc jockey con la voce così, ragazzi, allora, e siamo ancora qui con questo, e mi ricordo si traduceva qualsiasi cosa. Cioè, e così abbiamo con noi, ecco qui, Tina Turner o Assuntina Girevole con questa canzone. Oltre alla radio, per racimolare qualche soldo, Rosario fa diversi lavoretti, tra i quali aiutare il signor Cacciaguerra, titolare di una ditta di onoranze funebri che sponsorizza la squadra di calcio giovanile di Augusta. Sentiamolo. Nei momenti liberi dell'ufficio veniva con me a giocare a pallone. E quando ad esempio lui era qua in ufficio era sempre scherzoso. E non so, arrivava qualche telefonata, lui prendeva la cornetta, l'alzava: pronto carabinieri oppure vigili del fuoco. Saro, ma come? Può essere che qualcuno che era qualche parente di qualche deceduto, no? E lui faceva sempre questo tipo di scherzi, era sempre così. Cacciaguerra delle pompe funebri. Hai paura di morire? Sempre. Sì, ho paura di morire. Io spero, se quando vado a letto, spero sempre di, speriamo di svegliarmi domani, perché poi penso, se muoio nel sonno, sai quelle cose lì? Perché ci sono quelli che ti è morto nel sonno, Non mi andrebbe di morire nel sonno. Almeno voglio, come nei film, voglio dire, ti ho voluto bene, insomma, a qualcuno, a mia moglie, devo dire, ti amo, e muoio. Almeno che non sia una morte violenta, che non ti dà il tempo di... Sai che ti dico, rettifico la cosa di prima, meglio morire nel sonno. Nella vita di Saro, la vera svolta arriva nel 1975. Vicino ad Augusta, a Brucoli, apre un villaggio turistico che per i ragazzi è una vera attrazione. Rosario riesce a farsi assumere. Dopo 2 anni è diventato l'animatore Fiorello e nel circuito di villaggi turistici diventa una celebrità. Mi chiamo Fiorello. Vengo da una famiglia povera e ho scelto questo come lavoro. Lavoro? Ma che lavoro? Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Mix 24, storie di star. Bentornati a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la vita appassionante di uno dei più famosi personaggi dello spettacolo italiano, Fiorello. Nei villaggi Valtour Fiorello conosce Bernardo Cherubini. Questo incontro segnerà una svolta fondamentale nella sua vita, come lo racconta lo stesso Cherubini. Bravo! Ho conosciuto Rosario tra le montagne della Val d'Aosta, a Pila per la precisione, e pare che questo incontro abbia cambiato la sua vita. Poiché ho un fratello minore che si chiama Lorenzo ed è il più famoso, insomma, giovanotti, e quell'anno era l'anno della sua esplosione, della sua scoperta da parte di Claudio Cecchetto. E io pensai, ma io ho un amico che secondo me quello è più talento di tutti, devo fargli conoscere Claudio, assolutamente. Riuscì a portarlo alle prove di uno spettacolo che mio fratello Lorenzo stava facendo. Gli dissi: Rosario, andiamo alle prove. Giovanotti! Io ho un amico tecnico del suono, ti faccio dare un microfono aperto e parti. Prima i cameraman vennero conquistati, faceva imitazioni, cominciò a fare un po' di tutto, quello che fa lui, un vulcano. E poi giunse all'orecchio a Claudio Cecchetto che lui aveva fatto questa performance. E da lì inizia la storia televisiva di Rosario. È Claudio Cecchetto, impareggiabile scopritore di talenti, che fa incontrare Fiorello con Marco Baldini. Quando Baldini era più famoso di Fiorello, 1990, Marco Baldini e Fiorello presentano Viva Radio DJ. E così è iniziato Viva Radio DJ. Ciao a tutti da Marco Baldini. Nasce un sodalizio. La ditta Baldini-Fiorello si rafforza, come racconta Fiorello. Io sotto sotto l'ho sempre saputo. A 4 anni feci Ulisse, Umbri Cinesi, io facevo Ulisse. Quando uscimmo fuori dal lenzuolo, io a 4 anni vidi sta gente che faceva così. E quella cosa mi piacque talmente tanto che ho detto, ammazza, io la voglio riprovare questa sensazione di essere acclamato da... Rosario Fiorello, insomma, debutta nel mondo dello spettacolo grazie al fratello di Jovanotti. Qualche anno prima, tuttavia, nell'86 Fiorello aveva già fatto un altro provino, stavolta con Pippo Baudo per un'edizione di Fantastico. Quella volta però Pippo Baudo non lo vuole. È stato l'unico provino della mia vita perché io sono contrario ai provini. Mi avevano parlato di questo ragazzo di Augusta che faceva, insomma, nei campi, nei villaggi, insomma, faceva l'animatore. E noi cercavamo dei comici nuovi, dei personaggi nuovi per fare Fantastico. Squilla il telefono, era al villaggio di Ostuni, mi chiamano, dice guarda c'è Pippo Baudo al telefono che ti cerca. Ma dice, va dai, te chi è? Vado là, te chi sei? Sono Pippo Baudo. Dai, chi sei? Chi sei? Chi sei? Io, quando ho capito che era veramente Baudo, ho detto ma sì, devi venire qui, ti devo vedere, mi hanno parlato di te, Renato Greco mi ha detto che devi venire. E venne lui a fare il provino. Arrivo lì e vedo un migliaio di persone che dovevano fare i provini, tutti con copioni in mano, chi alzava la gamba, chi faceva le palle, chi tirava le frecce, donne cannoni, c'era qualsiasi cosa. Ho detto, ma che è qua? Migliaia di persone che passavano, buonasera, nome, come si chiama? Gli dicevano. Dice no, prego, e questo faceva tutti i suoi pezzi, prego, grazie, avanti un altro, detto, ma che ci hanno preso per gli animali qua? Ora, normalmente quando si fa un provino di 5 minuti, 10 minuti. Allora a un certo punto dico no, non fa per me. Fiorello, Rosario, arrivo, metto davanti alla telecamera e dico scusate, proprio così faccio, scusate, so che qui stanno facendo dei provini, io non lo voglio fare, non mi interessa, grazie, dovrei andare, c'è solo un piccolo problema, mi potreste rimborsare i soldi del viaggio ora, subito, perché siccome io devo tornare, siccome mi hanno detto che mi ridaranno dopo i soldi, ma io ho bisogno dei soldi adesso, non me li potreste rimborsare ora, perché io devo tornare da dove sono venuto, e sta cosa qui... A Baudo gli sembrava un pezzo, una cosa comica che io stavo dicendo, invece ero vero. E lui mi faceva continuare, ma come ti chiami? Fiorello, mi chiamo Fiorello. Ma che nome è? Fiorello, è un cognome così. Ma tu canti? Sì, però io dovrei tornare. E io insistevo sui soldi, io volevo i soldi subito perché dovevo partire. Ecco, lui incominciò, fece un provino, penso 50 minuti. Nel frattempo cantai pure, ma fammi sentire come canti. E va bene, mi manda uno a suonare, io faccio, scusa se devo cantare, c'è il maestro Caruso lì. Può venire lei che mi fa cantare qua, così, poi a un certo punto avevo capito ho cominciato a divertirmi e fece un bel provino alla fine, risultò essere una cosa bella. Lui, Baudo, mi prese da parte, si alzò e mi disse vieni con me, tutti i cameraman facevano, ok, vieni con me, cioè non l'aveva fatto con nessuno, vieni con me, mi porta in un ufficetto e mi fa, mi piace, mi diceva, mi piace, ma sei lungo. Gli ho detto, senti Fiorello, ma qui Fantastico lo devo fare io, non puoi farlo tu, quindi bisogna che ti ridimensioni. E lui mi disse, sei bravo, ma non ti prendo, non ti prendo. E praticamente lo scartammo, io che mi vanto nella vita di averne scoperti tanti, E quella di Fiorello veramente è una toppata gigantesca. Una toppata gigantesca, come ammette Pippo Baudo, che di lì a poco vedrà esplodere il fenomeno Fiorello. È il 92, l'anno del karaoke, un successo travolgente, inaspettato, di cui Fiorello, che a quell'epoca ha 32 anni, diventa mattatore assoluto. Il programma gira l'Italia con una carovana di 40 persone, riempie le piazze, sconvolge i palinsesti, i dati Auditel, ma anche la vita di quel ragazzo partito dalla provincia di Siracusa. E la mia carriera è un po' strana. Dal villaggio turistico, dal Pareo, io ho fatto un salto, devo dire, traumatico. Direttamente Milano, Radio DJ. Negli anni Ottanta. E dopo neanche un anno mi propongono di fare il karaoke. E mi fecero vedere questa cassetta, era olandese. Bene, però noi lo dobbiamo fare all'italiana, come lo facciamo? Come lo facciamo? C'era Claudio Cecchetto a quei tempi. Beh, potremmo usare i monumenti, perché l'Italia, le piazze, poi lui è abituato con la gente, così mi fiondano nelle piazze italiane. Ovviamente il programma registrato, anche l'abbigliamento che avevo, quelle giacche così colorate, era una forzatura tecnica, perché io facevo 3 puntate ogni sera, quindi non potevo stare ogni volta a finire la puntata, camerino, tenevo sotto tutto nero, levavo la giacca gialla e mettevo quella rossa. Benvenuti, oggi è mercoledì, benvenuti, oggi è giovedì, benvenuti, oggi è sabato, auguri, buon anno, c'ero sempre... Ero sempre là. Comunque, per dirvi, faccio sto karaoke, prima puntata registrata ad Alba, palco montato, 4 persone davanti, 4. Cioè 4 che si aspettavano forse una vendita di qualcosa, perché ancora non si era visto in televisione. Niente, io proprio come i vecchi tempi, con la macchina, presi un megafono per Alba. Questa sera in piazza, non mi ricordo dove eravamo, registreremo un programma per Italia 1, si chiama Karaoke. Cominciano ad andare in onda le puntate in TV. Prima puntata ascolto tipo il 6%, seconda puntata il 7%, poi l'8%, il 9%, il 6%, il 7%. Dopo 10 puntate mi chiamano: senti Fiore, guarda, purtroppo dobbiamo chiudere il programma perché non funziona, purtroppo a quell'ora ci sono tutti i TG, quindi non funziona. Ho detto, vabbè ragazzi, non vi preoccupate, io torno in radio, tranquilli, grazie, arrivederci. Erano rimaste 7-8 puntate di Magazzino, si dice. Dice, vabbè, mettiamole, c'è ormai lo sponsor. Mettono queste puntate, mentre io ero per i fatti miei, manco lo guardavo io. A un certo punto, di botto, non si capisce perché, questo programma di botto 10, 11, 15, 20, 23, 25% all'orario dei telegiornali, impensabile. Di botto, Fiore, torna! Dobbiamo continuare a registrare. Bene, mi rivesto la giacchetta gialla, arrivo a Pescara, da 30 persone in Piemonte, 15.000 persone in piazza, senza nessuna protezione, una transenna, nulla. Un disastro. Lo hanno definito il ciclone Fiorello. Una trentina di ragazzi feriti, fortunatamente in modo non grave, saracinesche dei negozi rotte, una vetrina in frantumi, aiuole e alberi distrutti. I fans dell'ex disc jockey della Riviera Romagnola, ieri sera a Pescara con il suo karaoke, erano più di 13.000. Fiorello! Fiorello, sei unico! E io vedevo la gente, che vuoi da me? Ah! Così mi guardavano in faccia, Fiorello! Fiorello! Io, mi conoscono! Ah! A un certo punto dico, cosa sta succedendo? Vado al cinema, una sera a Milano, entro a spettacolo iniziato, fine primo tempo, si accendono le luci, io così, così, Fiorello, Fiorello, ci sono quelli che fanno Fiorello, Fiorello, vado a casa, 500 persone sotto casa mia, ecco, ora voi pensate, uno abituato a un certo tipo di vita, di botto si ritrova questo grandissimo successo, ma proprio grande. Io continuo, mi monto la testa, giustamente, perché io veramente sfido chiunque, una persona normale, che di botto da sconosciuto diventa, quelle sono cose terribili, posso dire che sono veramente terribili, cioè, ma non ti fa piacere in quella maniera? No. Il nocciolo duro del suo pubblico sono i giovanissimi, anzi le giovanissime, ma anche ai genitori e agli adulti non dispiace entrare in gioco e farsi coinvolgere. Secondo alcuni il karaoke però è volgare. Il karaoke è volgare, ma non perché volgare, perché da volgo, che chi ha studiato è sa, troppo popolare. Ecco, è popolare. E quello vogliamo fare noi, e appunto per questo, perché allora, ci saranno persone dello spettacolo, della televisione, che pensano agli intellettuali. Boh, io penso al popolo. Il karaoke, dunque, è la rivoluzione della vita di Fiorello. Io incapace in quel periodo della mia vita di intendere, di volere, praticamente tutto era tutto wow, tutto andiamo qui, serate, spettacoli, qualsiasi cosa, decisi di smettere. E però pensavo, e ora? Dopo il successo sbalorditivo del karaoke, Fiorello è in crisi. È stato un successo troppo grande, troppo rapido, troppo difficile da gestire per quel ragazzo venuto dalla provincia siciliana. Nel 95, in cerca di una nuova identità, Fiorello approda a Sanremo come cantante, ma è un festival che in qualche modo segna per sempre la sua carriera. E il ricordo è un ricordo amaro, anche il pubblico infatti percepisce che in Fiorello c'è qualcosa che non va, che l'incantesimo si è rotto, insomma è l'inizio di un percorso umano e professionale molto molto difficile. Ma Fiorello oramai è un personaggio pubblico e come il successo, così anche la crisi, viene vissuta sotto i riflettori. Lo davano tutti per vincitore. Aveva una corte dei miracoli allora tremenda. Aveva 20 bodyguard, 20... Io dicevo, stai tranquillo Fiorello, non fare così, lasciati libero, dai, tranquillo. Perché era una condizione psicologica, sentimentale un po' difficile. Ma questa storia con Anna non è che poi si scopre che è come quella storia lì della Schiffer col mago che... Che è tutta pubblicità. Ma è uguale, voi non lo sapete, io sono un mago. Non mi avete riconosciuto, davvero. Sono io travestito, vuoi che volo? Ma lui si emozionò moltissimo e alla prima serata anche fece qualche stecca. Ma tu dove sei? Ogni giorno più difficile il tempo senza te. In realtà Fiorello a Sanremo c'è già stato, nel 1990, come inviato di Radio DJ, ma è un ricordo triste. È proprio in quei giorni, infatti, che viene a mancare suo padre. Anche per questo Sanremo 95 rappresenta per lui, come dichiara Maria Volpe del Corriere della Sera, un omaggio a suo padre. E lui credeva veramente in me, cioè, ma tanto... Cioè, nel senso che quando io gli dissi, papà, io mollo tutto, lascio la scuola, me ne vado nei villaggi, parto. Cioè, qualsiasi padre dice che stai facendo, studia, fa, definisci. Se tu pensi che questa sia la cosa giusta, falla. La classifica finale di quel Sanremo vede trionfare Giorgia, con Fiorello al quinto posto. La stampa interpreta questo risultato come una sconfitta. I quotidiani titolano che Anna Falchi sarebbe delusa e in lacrime. E nonostante l'album Finalmente tu scali rapidamente la vetta delle classifiche, si comincia a parlare della caduta di Fiorello. Canale 5 decide di affidare a Fiorello la sfida del sabato sera con un programma importato dalla Francia che si intitola Non dimenticare lo spazzolino da denti. Ma nonostante le aspettative, il programma va male, gli ascolti crollano. Fiorello vive un disagio, un malessere e fa una scelta radicale. Si allontana dalla TV. Ora preferisce il teatro ed il contatto diretto con il pubblico che da sempre gli dà energia. Ma si allontana anche dal suo agente Claudio Cecchetto. Dopo mesi di assenza dalla TV, Fiorello viene chiamato a Canale 5 per condurre 3 puntate in tandem con Maurizio Costanzo. Un incontro per lui importante. Da questo incontro nasce la nuova edizione di Buona Domenica, che vede insieme la strana coppia Costanzo-Fiorello con Paola Barale e Claudio Lippi, Così il ricordo di Maurizio Costanzo. È stato un anno bello, affascinante, drammatico. La verità è che Fiorello in quel momento cominciava a vivere una sua crisi proprio di uomo, di conduttore. Durante questo periodo Fiorello dà la priorità alla sua vita privata, ma scopre anche il cinema. Nel film Cartoni animati, che narra la storia di barboni che vivono per strada e dormono tra i cartoni, interpreta Salvatore. Un pescatore sprovvisto della sua migliore esca. Qui racconta proprio la felicità della gente che non ha niente. Però anche il povero, quando comincia ad avere tanto così, la testa cambia. Mi è successo a me. Qualche tempo fa. Mi ero montato la testa. E mo riparto. Una frase propiziatoria. Poco dopo, infatti, Fiorello incontra Susanna Biondo, come raccontano Costanzo e Fiorello. È la donna che sposerà, quella con cui formerà una famiglia e che lo renderà padre. Ma guardate, Fiorello, è veramente... Eccolo qua, Costanzo, Un uomo, come dire, che avendo trovato la donna giusta accanto, è diventato realmente Fiorello One Man Show. Beh, Maurizio è stato praticamente testimone di questa mia unione con Susanna, i primi tempi, così, in quel periodo facevo proprio Buona Domenica con lui, e lui ha sempre sostenuto che Susanna fosse per me la chiave di volta della mia vita, e così è stato. Nella carriera di Fiorello c'è anche un altro incontro decisivo, quello con il produttore Bibi Ballandi. Dall'incontro con Ballandi nasce Stasera pago io, che in qualche modo è un ritorno al grande varietà della Rai come Studio 1 Canzonissima, ma naturalmente aggiornato ai tempi d'oggi. Un programma, insomma, che di nuovo segna la storia della Rai e della televisione. Sentiamo Bibi Ballandi. L'intendimento era di far esprimere Fiorello, quello che Fiorello era, cioè l'intrattenitore, la persona che emoziona, che sorprende. Di puntata in puntata l'ascolto continua a salire. Nella grande tradizione dei varietà della Rai, Stasera pago io diventa un appuntamento imperdibile. Sono state 3 edizioni in continua escalation, perché insomma lui è capace di trasformare il niente in un evento. Ma durante le 3 edizioni di Stasera pago io non mancano i grandi artisti italiani che duettano con Fiorello e si prestano a numeri di ogni tipo. Guarda che quando venivano a Stasera pago io, i grossissimi, ti parlo di Céline Dion, di soprattutto i cantanti, no? Io li prendevo in contropiede alle 7, quando arrivavano per fare una prova, così successe con Céline Dion, mi ricordo. Lei arrivò a... Il discografico ha detto no, nulla, canta Titanic, la canzone, ciao, 2 domande da concordare e poi va via. E ha detto va bene, arriva Céline Dion alle 7, come se io per caso passassi di lì, ero là, e faccio Céline, proprio così, come se la conoscesse, Céline, e comincio a fare, con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei, io sapevo che lei aveva fatto sta canzone con Pavarotti. E lei? But if I were to leave you, I would die. Abbiamo cominciato senza musica lì a cazzeggiare. Senti, la vogliamo fare questa sera, questa qua, che abbiamo uguale. Oh, yes, of course. Io guardavo il disco e dicevo, beccate questa, of course, ha detto of course, e l'abbiamo fatta. La 3ª edizione di Stasera pago io ha dentro di sé molto della storia di Fiorello. La sua sicilianità, la strada che ricorda il karaoke e naturalmente la sua passione di sempre, la radio. Stasera pago io 2004 è un varietà di un Fiorello maturo che ha raggiunto una popolarità come poche volte accaduto nella storia della televisione. Ma proprio durante Stasera pago io Fiorello capisce che la televisione gli ha già dato tanto e rischia di togliergli tutto. Da quel momento in poi Fiorello decide di dedicarsi quasi esclusivamente alla radio e agli spettacoli dal vivo, che da sempre sono le sue 2 grandi passioni. Le sue apparizioni televisive si fanno più rare e mirate. qualche occasionale esperimento per portare la radio in televisione o per testare nuove forme di varietà, oppure una serie di spot pubblicitari con Mike Buongiorno. E proprio quello con Mike è un rapporto singolare e curioso, una strana coppia che ci aiuta a capire meglio il Fiorello di oggi. Sentiamoli. Amici ascoltatori, allegria, eccolo qua. È ormai un parente, non... un papà vorrei dire, un papà, un... se dico nonno si arrabbia. Non so come dire, a parte che è dotato di un'ironia, ragazzi, cioè, ti prende per il C, manco te ne accorgi. Mike, io di te penso tutto il bene possibile, ti voglio tanto bene. Tutte le volte che viene a Milano io lo vado a vedere al Palazzo dello Sport quando fa il suo spettacolo, lo vedo partire in quarta, pensate che lui non si interrompe, fa il suo show dall'inizio alla fine, 2 ore e un quarto, alla fine da buttare via. Anche questa è una grande dimostrazione di grande preparazione. Rosario Tindaro Fiorello. Qual è il suo conduttore preferito rigorosamente al di sotto dei 55 anni? Beh, Gerry Scotti devo dire che è quello che più riesce a condurre, se, cioè, con una vena di ironia non indifferenza, e poi qualsiasi tipo di spettacolo. Credi in Dio, Fiorello? Che domanda. Sì, credo in Dio, ma ho avuto più volte dubbi, e quando uno ha dubbi in queste cose non va bene, vuol dire che non hai fede, e quindi, però io voglio avere fede, voglio credere. Se la ride pure, mi ha fatto la domandina. Cos'è la cosa? Ah, sempre lui, è sempre lui. Cos'è la cosa? Veramente ti renderebbe più felice in assoluto. Ma adesso sembrerò banale, ma quello che ho in questo momento va più che bene. Insomma, una moglie bella, una famiglia stupenda, il lavoro va bene, questo mi rende felice. Però c'ho l'ansia.